il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Puntata davvero specialissima questa di Non ci sono più le mezze stagioni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché parliamo di una cosa fondamentale, fondante si potrebbe dire, che sta però mutando nel tempo. E ci saranno non solo un opinionista estemporaneo, come di solito diciamo nella formula tradizionale della trasmissione, ma molti ospiti, quindi sentirete tante voci, tanti punti di vista su un argomento che vi vado così ad illustrare. E si nasce in famiglia, voluti o non voluti, nel migliore dei casi, da genitori innamorati. E si forma un gruppo chiuso, dove siamo più protetti, col possesso un po' geloso, degli amori e degli affetti. All'inizio tutti emozionati, sopraffatti dalla meraviglia, ci si abitua poco a poco a vivere in famiglia. Ecco, l'ha detto, è chiarissimo, questo è il concetto, parliamo di famiglia e anche di famiglie, perché è proprio questo il modello. Il concetto che negli anni sta cambiando progressivamente, naturalmente non dall'oggi al domani, ma sono già 20 anni che un po' il ritratto di famiglia in Italia ha assunto delle caratteristiche un po' diverse rispetto alla famiglia tradizionale, quella composta da madre, padre e due figli e più di solito. No? Adesso addirittura dalle ultime statistiche, dall'ultimo rapporto dell'Istat, risultava che le coppie coniugate con figli, quindi il nucleo diciamo tradizionale di famiglia, è al 33% rispetto a tante altre forme che sta prendendo la famiglia. C'è chi è diciamo più aperto e anche più favorevole a questa trasformazione, chi invece è molto contrario, però è vero che stanno aumentando intanto separazioni e divorzi, quindi poi anche a seguire forme differenti, a parte coloro che decidono di convivere, sono sempre di più, poi quelli che si separano, che divorziano, anche i matrimoni sono sempre più in calo, e poi magari si rifanno, quelli che divorziano e si separano, delle altre famiglie che si chiamano da tanti anni, no? Questa espressione la conosciamo, la famiglia allargata, ci sono poi le famiglie monogenitoriali, ci sono anche le coppie dello stesso sesso, è un argomento di cui si dibatte molto, specie ultimamente. Però per affrontare questo argomento così complesso e articolato vi vado a presentare, signore e signori, gli opinionisti e ospiti di oggi. Chiara Saraceno, benvenuta Chiara. Buongiorno. Sociologa della famiglia, è stata docente per tanti anni all'Università di Torino. E poi c'è Stefano Zecchi, caro Stefano. Buongiorno. Filosofo, scrittore, docente di estetica all'Università Statale di Milano, che ha scritto per Mondadori "Dopo l'infinito cosa c'è, papà? Fare il padre navigando a vista", che c'entra molto naturalmente con l'argomento che stiamo per trattare. C'è Paola Concia. Paola Concia, ciao. Salve a tutti. Deputata del PD che ha scritto la sua autobiografia, La vera storia dei miei capelli bianchi, che è un libro di particolare interesse per chi è preoccupato dell'incanutimento dei capelli, mi pare sia questa un po', no, l'obiettivo, sì. Paola, è vero? Non è un libro sui problemi tricologici, ecco. E poi ne parliamo. E poi c'è Pietro Boffi, benvenuto anche a Pietro Boffi. Buonasera. Pietro Boffi, responsabile del centro documentazione del CIF, che è il Centro Internazionale Studi Famiglia di Famiglia Cristiana. E saluto Marco Volante. Buonasera a tutti. Marco, presidente dell'associazione LINFA, che è la Lega Italiana Nuove Famiglie. Pensate un po', è nata quindi anche questa associazione per fotografare per l'appunto cosa effettivamente sta succedendo. Però avviso voi ascoltatrici e ascoltatori e anche gli ospiti di oggi, che ho dovuto acchiappare per un pelo Linda Laura Sabbadini, direttrice del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, che doveva essere presente, però mi ha detto no, sto partendo per un volo internazionale, era all'aeroporto, però mi interessa, visto che di recente è stato presentato il rapporto Istat sull'Italia e naturalmente dentro c'è anche la famiglia, sapere un po', avere da lei una radiografia della trasformazione familiare oggi e negli ultimi 20 anni. Sentiamo che cosa ha detto. Negli ultimi 20 anni le famiglie nel nostro paese si sono profondamente trasformate. Innanzitutto sono aumentate da 20 a 24 milioni circa e si è ridotto il numero medio di componenti da 2,7 a 2,4. Questo vuol dire che abbiamo assistito a un processo di semplificazione strutturale. Sono aumentate le persone sole, siamo arrivati a 7 milioni, sono aumentate le coppie senza figli e le famiglie monogenitore, soprattutto madri sole, e sono diminuite le coppie con figli, oltre alle famiglie con più generazioni che ormai stanno in diminuzione da tantissimi anni. E quello che va detto è che le coppie coniugate con figli non sono più, diciamo così, il modello dominante nell'ambito delle nostre famiglie, nel senso che si sono fortemente ridotte e arrivano al 33,7% delle famiglie italiane. E anche nel Mezzogiorno, dove ovviamente questo modello è molto più radicato, non sono più maggioritarie, perché nel 93-94, quindi diciamo 20 anni fa circa, erano la maggioranza, mentre invece adesso siamo fanno poco più del 40%. A che cosa è dovuto queste profonde trasformazioni? Dobbiamo tenere presente vari elementi. Il processo di invecchiamento della popolazione, perché tra le persone sole, per esempio, più della metà sono anziani. Secondo, il calo della fecondità, che ha portato ovviamente alla riduzione delle coppie con figli. E il terzo elemento sono anche i cambiamenti degli stili di vita, cioè un modo diverso di vivere la famiglia nelle varie fasi della vita, cioè con l'aumento delle separazioni e i divorzi, con la sperimentazione delle convivenze, per esempio prima del matrimonio e così via. Sta cambiando un po' l'esperienza di vita delle varie generazioni, per cui si esce dalla famiglia più tardi, prima di sposarsi magari si convive insieme, nelle ultime generazioni si convive sempre più spesso, sia che si faccia un matrimonio religioso o un matrimonio civile dopo. Dopodiché si possono fare i figli, ma si posticipano molto, nel centro nord se ne fa uno solo, magari a un certo punto ci si separa, per cui si formano due famiglie e così via. Diciamo, quello che succede è che nel percorso di vita delle persone si tende a vivere più forme di famiglia di quanto non succedesse in passato. Va detto che non è soltanto le nuove forme familiari che portano a questa trasformazione delle famiglie, perché ovviamente la differenza tra le coppie di fatto e le coppie coniugate è enorme. Le coppie di fatto sono 1 milione rispetto alle coppie che sono più di, alle coppie coniugate, che sono più di 10 volte di più delle coppie di fatto. Però è il complesso di questi elementi che ci dicono che tra l'invecchiamento, il calo della fecondità e i nuovi stili di vita e le nuove famiglie, siamo in un processo di grande cambiamento che non si vede il singolo anno, si vede proprio sul lungo periodo. Nell'arco degli anni. Senti, Linda Laura, tra l'altro c'è un nuovo elemento, che è nuovo tra virgolette, perché in realtà c'è sempre stato, però comincia a configurarsi, a essere un po' più trasparente, perché anche la cultura, la mentalità un po' cambia, no? Sto parlando delle coppie dello stesso sesso. L'ultimo censimento anche avete messo delle domande, no? A cui si poteva rispondere se si era coppia dello stesso sesso, che si conviveva. E anche questo è un nuovo elemento, sia da Strasburgo, dal Parlamento europeo, ma anche da Cassazione in Italia, sempre più spesso si sottolinea il diritto, no, anche di queste coppie di convivere alla luce del sole, di avere dei diritti. Anche queste rientrano in queste nuove famiglie? Sì, all'interno del censimento ci si poteva dichiarare come coppia dello stesso sesso. Era riportato anche nelle istruzioni questo elemento, ancora i dati non ci sono. Quello che va detto è che c'è una grossa difficoltà da parte delle persone omosessuali a dichiararsi. Noi abbiamo fatto un'indagine ad hoc specifica a maggio, questo. No? È uscita proprio, sì, sulla discriminazione. Sì, proprio l'abbiamo presentato alla Camera dei Deputati, in cui abbiamo chiesto alle persone di dichiarare il loro orientamento sessuale. È venuto fuori che si sono dichiarati con tutti i crismi della difesa della privacy, cioè abbiamo dato buste sigillate, una cosa molto protetta per cercare di mettere in condizione tutti di potersi esprimere liberamente. Però è molto difficile questa cosa. Noi abbiamo stimato in 1 milione le persone che si sono dichiarate. Si arriva a 3 milioni quando si aggiungono quelle che hanno dichiarato di essersi innamorate di una persona dello stesso sesso, di aver avuto rapporti sessuali o di esserne attratte. Però sono un numero esiguo rispetto alla realtà, no? Probabilmente. Abbiamo avuto un 15% di mancate risposte che non necessariamente sono omosessuali. Il problema serio che c'è nel misurare questo aspetto, ma che non siamo solo noi a averlo, che tanti paesi hanno avuto e hanno tuttora, è proprio il fatto che c'è una grossa difficoltà da parte della popolazione omosessuale a dichiararsi. Ma sintetizzando poi alla fine, con tutte queste componenti, possiamo dire che assomigliamo, anche se in modo un po' attenuato, sempre più ai paesi del nord? Ma secondo me no, non è così, nel senso che noi siamo comunque l'Italia, abbiamo sempre avuto un modello diverso, abbiamo per esempio una permanenza dei giovani nella famiglia di origine che è molto più accentuata, dei percorsi di vita che sono diversi delle varie generazioni e che sono stati diversi anche nella storia del nostro paese. Quindi ci avviciniamo nel senso che crescono nuove forme familiari anche da noi, come sono cresciute magari molto più intensamente nei paesi nordici. Nello stesso tempo direi anche che noi abbiamo una caratteristica particolare che è quella di una forte rete di aiuti informali della famiglia, che ci viene molto invidiata dai paesi nordici che l'hanno molto meno. Presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Eccoci di nuovo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sempre Roberta Giordano con voi. Vi ricordo che c'è sempre anche la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni per i vostri commenti e le vostre osservazioni. Oggi puntata specialissima su come il modello familiare tradizionale in Italia, soprattutto negli ultimi 20 anni, si sta modificando. Abbiamo sentito prima questo ritratto appunto di famiglia di Linda Laura Sabbadini dell'Istat, e poi ci sono sempre Chiara Saraceno, Stefano Zecchi, Paola Concia, Pietro Boffi e Marco Volante. Siccome c'è un altro ospite che deve scappare, Stefano Zecchi, Stefano, volevo sentire il tuo parere rispetto a quanto diceva Linda Laura Sabbadini, se sei d'accordo con questa sua analisi e qual è il tuo punto di vista. So che tu sei un grande difensore della figura del padre in senso tradizionale. No, in senso tradizionale fino a un certo punto. Comunque, sì, non certo il padre padrone. Ma, meno male, siamo d'accordo. No, la questione secondo me dovrebbe essere posta in questi termini. Cioè, c'è chi ha un sentimento legato alla sua tradizione ebraica, cristiana, per cui considera la famiglia un'istituzione che ha una sua radice religiosa, e si sa, la famiglia è un'istituzione religiosa e culturale. Se si entra in una dimensione invece laica, beh, certo, la famiglia cambia, si modifica secondo di situazioni che sono legate ai tempi e ai sentimenti con cui si vivono i cambiamenti dei tempi. Però resta un fatto, e il fatto è che quando due si sposano anche senza nessuna crisma di tipo religioso, pensano evidentemente non di divorziare dopo 2 minuti che si sono sposati. E allora bisogna capire cosa succede nella visione del mondo di chi oggi ha l'idea di costruire una famiglia. Spesso, questa è la mia esperienza, lo vedo con i migliaia di giovani che ho conosciuto all'università, c'è molto capriccio che non porta a nessun principio di responsabilità, e non si coglie il fatto decisivo che la famiglia comporta una oggettiva responsabilità. Insomma, mia nonna diceva che la famiglia non può essere affidata all'amore, bisogna pensare ad altro, essendo una cosa troppo seria per lasciarla all'amore. Più o meno una cosa potrebbe essere una guida anche oggi. Quindi manca questo principio di responsabilità. Secondo luogo, che tu avevi appena accennato, uno dei momenti, a mio parere, di maggior crisi nell'educazione, qualunque sia la struttura della famiglia, sia quella diciamo in senso tradizionale, sia quelle aperte, aperte, sia quelle che modificano quindi la struttura tipica papà, mamma, bimbo, è appunto la figura del padre. Il padre oggi non esiste dal punto di vista culturale. Il padre è stato sostituito generalmente dalla madre, anche in senso buono. La mamma tende a surrogare le funzioni del padre, perché oggi una donna ha una sua libertà, una sua emancipazione, ha delle responsabilità molto alte, quindi ha un'idea di cosa sia il rapporto educativo con il figlio. Questa idea un padre oggi non ce l'ha, proprio perché non può far riferimento ovviamente alla figura del padre padrone, ma il principio è un padre, però ne abbiamo detto più volte, no, Stefano Zecchi, è un padre un po' più tenero, più tentato. Allora, ci sono quelli proprio irresponsabili che appena arrivano i figli dopo un po' scappano, perché insomma una vita poi cambia, non gli piace più. Però ci sono anche quelli più affezionati, più attenti, più premurosi, cambiano fino anche a un certo punto, perché la figura del mammo può andare benissimo, e quindi questo senso della tenerezza nel momento della nascita, dell'attenzione che ci può essere appunto nei primi anni di vita, ma poi ecco, è poi importante, cioè nell'adolescenza tu non puoi fare il mammo. Nell'adolescenza un padre deve avere la capacità di ritrovare i suoi riferimenti per formare, educare il proprio figlio, perché comunque lo si voglia vedere, il padre rappresenta sempre la storia, e senza anche storia, la madre. No, secondo me la madre ha un altro tipo, insomma la madre ha un altro tipo di rapporto col figlio, è inutile mettere e confondere le due posizioni. Il padre ha un ruolo immediatamente diverso con il figlio. Un figlio nei confronti della madre tende sempre ad avere una forma di protezione, di chiusura, di interiorità, è inutile scomodare la psicoanalisi. Il padre è invece rapporto con la storia, con il mondo, con la realtà, e qui il padre deve avere una capacità di inventarsi una funzione, che è quella, una funzione fondamentalmente di tipo culturale, che una madre non ha questo bisogno, perché è un dato immediato, istintivo, naturale. Ecco, io credo che uno dei grandi problemi che c'è oggi dentro la famiglia, qualunque essa sia, è proprio il ruolo e la funzione del figura padre. Del padre. Stefano, tu puoi rimanere ancora, sai che devo sentire gli altri ospiti, o ci lasciamo qui? Ma ci lasciamo qui. Vediamo, vediamo un momentino. Io resto finché posso. Va bene, poi ci avvisi semmai. Chiara Saraceno, sociologa della famiglia, hai sentito i ragionamenti di Stefano Zecchi, abbiamo sentito prima il quadro di Linda Laura Sabbadini. Che cosa ti sembra questa evoluzione? È solo negativa, è solo positiva? È fisiologica? Innanzitutto già dare giudizi di negativo e positivo vuol ci dire ci distanziare da un'idea un po' preconcetta di come dovrebbe essere il mondo. Ma io, rispetto a quello che diceva prima Linda Laura, vorrei approfondire un pezzetto, cioè bisogna distinguere tra nuove famiglie, nel senso che sono nuovi modi di farlo. Allora certamente le famiglie fatte dalle persone dello stesso sesso sono nuove famiglie rispetto al modello, diciamo, standard. Ma invece gran parte delle cose che vengono fuori anche dal censimento, famiglie più piccole, sono il frutto di un diverso dinamismo della famiglia. Cioè non è che ci sono tante coppie senza figli quando scattiamo la fotografia del censimento, perché molte più coppie di un tempo non fanno neanche un figlio, perché ne fanno poche e quindi rimangono più a lungo senza nessun figlio in famiglia. Beh, non è che non lo hanno da qualche parte, vorrei chiarire. Cioè, c'è un po' una distinzione, una confusione tra, quando si parla di famiglia, che il linguaggio italiano è così carico, ma anche così poco, così privo di distinzione. Noi usiamo il termine famiglia sia quando parliamo di chi vive sotto lo stesso tetto, quindi la definizione anagrafica, che è quella che ci dice che sono piccoli, che ci sono tante persone che vivono da sole e così via, e invece quando parliamo di famiglia nel senso dei rapporti anche con i parenti che ci stanno più vicino. Allora anche il vecchietto o la vecchietta che vive da solo, oppure la persona che esce da un matrimonio e che è tornato a essere da solo, non è che non ha rapporti familiari. Il vecchietto e la vecchietta si hanno fatto figli, l'avranno con i loro figli, con i loro fratelli e sorelle. L'uomo che è rimasto solo li avrà con la sua, coi figli se li ha avuti. Quindi stiamo attenti a pensare che tutte queste persone qui non hanno famiglia o hanno una persona. È un po' paradossale il linguaggio italiano, noi parliamo di famiglia unipersonale, che è una contraddizione in termini. Infatti, quando si dice una famiglia formata da una persona, cioè, anche nelle ricerche. Siamo l'unico paese, l'unica lingua al mondo in cui usiamo questa cosa, questo termine qui, perché rimane, che fa un po'... No, sono abitazioni con una persona sola, come dire, unità anagrafica con una persona sola, siamo ma d'accordo. Questa persona può avere invece intensissimi rapporti familiari. Certo. Chiara, ecco, visto... Sì, scusa. Invece rispetto alla questione che sollevava prima... Come si chiama? Stefano Zecchi. Io sono un po' perplessa, perché quest'idea che la madre è natura, che il padre è storia, non è mai stato così, mai. Tantomeno lo è oggi, perché sia gli uomini che le donne sono storia. Forse il papà dovrebbe essere un po' più affettività, ecco, che non è in contraddizione col dare le norme, col dare le leggi. Non è che se un papà accudisce quando il bambino è piccolo, poi non è capace di fare la persona autorevole quando il bambino è adolescente, perché anche mentre accudisce è autorevole. Le mamme lo hanno imparato da un pezzo a essere insieme autorevoli e accudenti. Certo. E ora che lo imparino anche i padri. Allora, Chiara, mentre stiamo per concludere quest'altro blocco, tra poco c'è un'altra pausa, Paola Concia, allora diceva Chiara Saraceno che semmai le nuove famiglie, quelle diverse dall'idea tradizionale di famiglia, sono quelle formate dalle coppie dello stesso sesso, che ce ne sono in Italia comunque. No? Adesso ci sono anche le famiglie arcobaleno, un argomento di cui si dibatte sempre più spesso. Io mi prendo anche il merito di aver rilanciato un po' il dibattito in Italia, almeno nei media, già all'inizio dell'anno. Qual è il quadro, secondo te, a parte Linda Laura? Sì. Sì, appunto, il quadro è quello che ha fatto Linda Laura, il quadro è quello che ha fatto Chiara Saraceno, il quadro della realtà. Poi, dopodiché, appunto, la vostra trasmissione si chiama Non ci sono più le mezze stagioni, sì, per rispondere a Zecchi. Non ci sono più le mezze stagioni, non c'è più il patriarcato, non ci sono gli uomini che tengono le donne a casa, anche se, diciamo, le donne, diciamo, 47 donne sono state uccise dai mariti e dai fidanzati. Io dall'inizio dell'anno, da cinquantina. Non ho nostalgia di questo passato di cui hanno stato. No, non intendeva proprio quel padre, ma un padre un po' più autorevole. No, un po' più... Non ci sono più. Non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono siamo più. D'accordo. Anche questo tipo di padre. Parlo di realtà. In che nel dì della festa e andenti in campagna a mangiare, che la famiglia modesta la va in treno per minga stacca. Ma in della nostra famiglia che il decoro della nobiltà e con la mamma e la figlia in auto per un viaggiare. La mamma è uno, col papà è due, la nanna è tre, col cagà è quattro, la vecchia d'Orpeno s'avanza, la famiglia Brambilla in vacanza. Insomma, altri tempi, ne sono passati di anni, la famiglia sta prendendo varie forme, per dinamismo, come diceva Chiara Saraceno, oppure perché manca la figura centrale del padre, secondo Stefano Zecchi, che, come mi avvisa Gian Gabriel Lombardo dai telefoni, ci ha salutati poco fa perché doveva correre, aveva un impegno. Abbiamo sentito all'inizio Linda Laura Sabbadini e ci stavamo confrontando con Paola Concia, deputata del PD, che ha scritto La vera storia dei miei capelli bianchi, lesbica dichiarata, forse l'unica in Parlamento, e stavamo parlando a proposito delle diverse forme di fare famiglia, delle coppie dello stesso sesso, no, Paola Concia, che è una realtà in Italia, non solo in Italia, ecco, ma noi stiamo parlando d'Italia. Sì, no, appunto, sia Linda Laura che la Saraceno lo hanno detto. Io voglio dire questo, voglio parlare delle istituzioni, di quello che deve fare un governo, deve fare la politica. La politica deve, non è che deve essere favorevole o contraria a profonde trasformazioni sociali della famiglia, deve saperle governare, le deve registrare e saperle governare nel modo più efficace, e cioè registrare e guardare la realtà, quindi conoscere la realtà, e adottare delle politiche efficaci per tutte le forme familiari. Questo fa la buona politica, non decide se gli piace o meno che ormai c'è il 33% delle famiglie tradizionali. Non è il compito delle istituzioni dire mi piace o non mi piace, sono gli italiani che hanno scelto di vivere così, sono gli italiani che si sono trasformati negli ultimi 20 anni, le loro forme familiari le hanno trasformate, e la politica e le istituzioni hanno il dovere di governare queste trasformazioni, perché hanno a che fare con i sogni e i bisogni delle persone. Cosa ne pensi, Pietro Boffi, responsabile del Centro Documentazione Internazionale Studi Famiglia di Famiglia Cristiana? Diceva, sì, Paola Concia, non è questione di dire mi piace o non mi piace, le cose si stanno evolvendo così e bisogna registrarle e capire anche come governarle al meglio. Beh, direi che è una visione abbastanza riduttiva del ruolo della politica e delle istituzioni. Beh, non perché solo quello. Se semplicemente state di registrare l'evoluzione e dire bene va così, servirebbe un notaio a questo punto, non certo direi prese di posizione politica. La questione è, secondo me, più complessa. E faccio riferimento anche a quello che ho detto finora anche dagli altri ospiti, a partire dalla fotografia molto articolata, complessa e molto veritiera, ritengo, di dell'autoressa Sabbadini. Mi sembra che abbia fatto, direi, giustizia in due luoghi comuni. Primo, che la famiglia adesso cambia, invece prima no, è sempre stata così immutabile nel tempo. La famiglia è sempre cambiata, con maggiore o minore rapidità, e non mi spaventerei di questi cambiamenti. È giusto e normale che in base a delle sollecitazioni che vengono dalla situazione economica, culturale, sociale, di costume, la famiglia cambi le sue forme. Sì. Seconda cosa, l'idea che adesso si dica le nuove famiglie, poi ci sono le tradizionali, diciamo il 33%, e d'altra parte ci starebbe il 67%. Mi sembra che questo termine nuove famiglie sia estremamente ambiguo, perché copre una realtà estremamente articolata e diversa di situazioni, molto spesso sono anche situazioni non volute, sono situazioni legate a fenomeni di diverso genere, la crescita delle persone sole legate, come diceva giustamente la dottoressa Sabbadini, all'invecchiamento della popolazione, l'idea delle famiglie con meno figli è legata per esempio al grandissimo ritardo con cui in Italia i giovani si sposano o si mettono in coppia e fanno figli, quindi abbiamo una situazione estremamente articolata. All'interno di questa situazione io porrei questo tipo di domanda: la relazione familiare istituzionalmente riconosciuta ha ancora un valore, ha un significato, serve a questa società, né ancora la cellula fondamentale nella quale gli individui imparano da un lato a stare al mondo e nello stesso tempo anche imparano a diventare una componente di un corpo sociale più vasto? Ecco, Pietro Boffi, mi viene voglia di risponderti subito a questa domanda, nel senso che ha ancora un senso, bisogna chiederlo agli italiani che vivono tante situazioni diverse, come dicevi tu, e lo trovi naturale, no? Che la famiglia si trasformi, quindi non è nel senso di vietare a qualcuno di vivere un modo o dire va di moda questa cosa, giusto? Assolutamente, non è stato di vietare, è stato di riconoscere se c'è un valore all'interno di una formazione istituzionalmente riconosciuta, quale quella appunto alla fine della nostra Costituzione, e se questo è vero, allora evidentemente sto prendendo posizione garantendo alcune specificità di questa formazione. Per converso, se chiediamo agli italiani, una delle cose interessanti che emergono dagli studi dell'Istat è anche il fatto che se si va a chiedere agli italiani il grado di soddisfazione per la propria vita familiare, quella che stanno vivendo, otteniamo delle statistiche, delle percentuali elevatissime, tra il molta soddisfazione e buona soddisfazione si supera il 90%. Questo vuol dire che un altro accento molto interessante usato dalla dottoressa Sabbadini quando ha detto abbiamo un reticolo di supporto familiare che gli altri paesi ci invidiano, esattamente, vuol dire che di fatto le relazioni familiari non sono considerate qualcosa di residuale e che nasce, muore, si sviluppa in modo assolutamente direi carsico qui e là, ma sono un punto di riferimento importantissimo nel quotidiano per la nostra vita. Chiarissimo. E questa è la realtà vera che stiamo avendo in Italia. Chiarissimo, Pietro Boffi. Marco Volante, però, dicevamo, è presidente della LINFA, la Lega Italiana Nuove Famiglie, quindi questo termine che diceva Pietro Boffi è un po' ambiguo, invece entra a far parte addirittura di un'associazione, di un acronimo. Quali sono queste nuove famiglie, Marco Volante? Perché c'è stata la necessità di creare questa associazione? Ma perché sulle famiglie è stata creata ad arte la solita fusione da chi insomma, sostanzialmente vorrebbe che lo status quo fosse cristallizzato in barba alla storia. Sulla questione delle famiglie ci sono tre ambiti distinti. Uno è il concetto stesso di famiglia, di cui si è parlato anche appunto con l'ultimo intervento. Basta guardarsi in giro per comprendere come vi siano molte forme in cui la famiglia si declina oggi. E la famiglia non è mai stata un monolito, questa è una cosa da sfatare assolutamente, e oggi più che mai è fluida, a causa, ne è stato già parlato abbondantemente, la maggiore interazione con gli eventi sociali, la maggiore importanza dei sentimenti sui legami formati, e poi ci sono gli strumenti giuridici che aiutano, dovrebbero aiutare le famiglie a gestire i rapporti interni e quelli con i terzi. E quindi lo stesso modo praticamente nel mondo a questa fluidificazione dell'istituto familiare è conseguita una fluidificazione logica conseguente degli istituti giuridici che la regolano, e quindi abbiamo il matrimonio, i PACS, i contratti di convivenza e anche delle norme che regolano quei diritti minimi nelle coppie di fatto. Tutti questi modi di gestire i rapporti giuridici non sono modi, diciamo, differenti gradazioni di un medesimo modo di regolare i rapporti, sono istituti assolutamente alternativi, cioè sono differenti regolamentazioni che aiutano le famiglie con strutture o comunque esigenze differenti a gestire i rapporti sociali, matrimoniali nel modo più consono, cioè sono tutte necessarie nella misura in cui vogliamo che ogni famiglia possa scegliere liberamente il meglio per sé. Quindi non si capisce perché, per esempio, una comunità economica possa scegliere tra molte differenti fattispecie di società, di persone o di capitali, e invece la famiglia, che è la comunità base, come è stato ripetuto più volte, del nostro tessuto sociale, non possa scegliere con che istituto regolarsi. A questo punto, Marco Volante, volevo chiedere a Chiara Saraceno come mettere insieme queste diverse istanze che forse si possono integrare, che esprimevano Pietro Boffi e Marco Volante. No, Pietro Boffi da una parte domandava, ma la famiglia in senso tradizionale è ancora un valore, va ancora difesa? E Marco Volante diceva, ma insomma ognuno poi costruisce i suoi legami, i sentimenti, le relazioni come crede più consono per se stesso. Chiara? Ma io parto proprio da quello che diceva Boffi, cioè se davvero le relazioni familiari sono importanti, non solo dal punto di vista sociale ma personale, ma le relazioni familiari intanto non sono solo le relazioni di coppia, voglio dire, il famoso reticolo di cui parlava anche lì da Laura Sabbadino è fatto di genitori, zii, nonni, eccetera, dove è del tutto irrilevante che ci sia stato un matrimonio e che si sia eterosessuali piuttosto che omosessuali. Allora, la cosa importante è aiutare, sostenere coloro che vogliono far famiglia, nel senso che vogliono essere in rapporti reciproci di solidarietà duratura. È qui che io vedo la congiunzione. Nulla contro l'eterosessualità e il matrimonio, che sono maggioritari, che non mi sembra che abbiano bisogno di particolare protezione. Incentivare invece di condannare anche alla clandestinità, all'inesistenza, tutti quei rapporti che vogliono dirsi pubblicamente come reciprocamente solidali, cioè che vogliono fare famiglia, non vogliono essere fatti puramente privati. Quindi Chiara Saraceno, scusami, tu dici la famiglia in senso tradizionale ha un valore, ma ha valore anche tutti quelli che vogliono poter far famiglia in modo trasparente, per esempio le coppie dello stesso sesso, stiamo dicendo. Proprio perché è un valore sociale andrebbe sostenuto e non invece prodotto o consentito in un unico modello e forma. Ha ragione Paola poi a dire che occorre che, cioè, non è che c'è l'anarchia totale, ma riconoscere la pluralità delle forme. Ma lasciamo perdere un momento la questione degli omosessuali, ma pensiamo anche ad altre cose che esistono, cioè per cui oggi ci sono famiglie ricomposte, in cui ci sono un uomo, una donna, una coppia, magari sposati tra di loro, che però sono stati con altre persone prima, sposate magari, e hanno figli da prima, oltre eventualmente averli in comune. Però nessuno loro vieta, no? Di fare famiglia. No, non glielo vieta, però noi non abbiamo l'attrezzatura concettuale ancora, e neppure quella legale, per definire che rapporto rapporti ci sono, per esempio, tra il nuovo compagno della mamma e la sua figlia, e la figlia di questa qui. Chiarissima, Chiara. Non ci sono più le mezze stagioni. Famiglia Adams, era famiglia, si chiama famiglia Adams, non per niente, insomma, c'è nel nome, nell'espressione. Siamo sempre qui a parlare di famiglia in questa puntata specialissima di Non ci sono più le mezze stagioni, sempre Roberta Giordano con voi, molti ospiti in collegamento. È naturalmente una questione, una dimensione molto articolata, il nucleo fondante della nostra società, per cui tanti punti di vista e tante le cose da dire. Paola Concia, allora, hai sentito che cosa si diceva con Chiara Saraceno, che cosa diceva prima Pietro Boffi a proposito appunto del... No, io volevo dire questo molto sinteticamente, che se la politica, Boffi, siccome mi ha rimproverato di essere massimalista e di essere riduttiva rispetto al ruolo della politica e delle istituzioni, io gli rispondo che se la politica e le istituzioni si occupassero dei bisogni e dei sogni dei cittadini, non sarebbero in crisi, diciamo così, sarebbero assolutamente, avrebbero ridotto la forbice e la distanza tra politica, istituzioni e cittadini. Io faccio politica così, io mi occupo dei bisogni e dei sogni dei cittadini, perché credo che questa sia la buona politica. Detto questo, questa cosa che la famiglia dunque c'è una, diciamo, un dato di realtà pazzesco che dicono, lo dice Chiara Saraceno da 30 anni, appunto lo dicono i dati statistici, cioè esiste un desiderio di famiglia che è un desiderio di famiglia diffuso, e questo desiderio di famiglia non fa altro che accrescere la famiglia, non la indebolisce, perché è un po' surreale dire che siccome tanti soggetti hanno desiderio di famiglia giustamente e vogliono essere riconosciuti come famiglia, e questo aumenta la coesione sociale, viene messa in crisi la famiglia tradizionale, perché non è escludente questa cosa, cioè non è che se si riconoscono altre forme familiari non si tiene conto, non si adottano politiche per la famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale esisterà sempre perché appunto è un nucleo importante della nostra società, ma occuparsi anche delle nuove famiglie non significa non occuparsi della famiglia. Questo è un po' un pensiero surreale, cioè è una cosa che io non capisco, cioè una conseguenzialità che non sta né in cielo né in terra. Oggi come oggi le nuove ci si occupa solo della famiglia tradizionale, nonostante sia diventata arrivata al 33%, e non ci si occupa più delle diverse forme familiari. E io credo invece che ci si debba occupare con grande serenità di tutti, del 100% delle forme familiari. Questo fa, insisto, la buona politica. Paola Concia è stata molto chiara. Pietro Boffi, molto sinteticamente, quindi dice: beh, Paola Concia, non è che l'una esclude l'altra, nel no, senso che tutti possono stare felicemente insieme. Bisogna forse precisare i termini. È vero che c'è un desiderio diffuso di famiglia, su questo concordo. Non penso che sia corretto rispondere a questo desiderio semplicemente fornendo una immagine, un modello di famiglia così evanescente da pregiudicare la sua scomparsa sostanzialmente. No, ma diceva Paola Concia che questo non distrugge la famiglia. Questo definito in questo modo, a monte, diciamo così, di questo termine ci deve stare un'assunzione di impegno e di dovere formalmente riconosciuto, perché altrimenti parliamo di una cosa che appunto cessa di esistere in quanto resa sostanzialmente tutte famiglia, niente è famiglia. Secondo passaggio che direi è questo: l'importanza di questo che sto dicendo è proprio in relazione a quella coesione sociale che ha evocato l'onorevole Paola Concia. La coesione sociale non si inventa, la famiglia produce coesione sociale laddove è fondata su delle basi certe e solide. Però se le diamo anche ad altre delle basi certe e solide, si moltiplica la coesione sì, sociale. Allora no. Ci sono due problemi diversi. Se parliamo ad esempio delle nuove famiglie intese come le convivenze simili, qualcuno prima diceva il matrimonio in questo senso è irrilevante, non è affatto irrilevante, è il punto di passaggio cruciale, tanto quanto tra le generazioni è il riconoscimento ad esempio di paternità e maternità quando si ha un figlio. Quindi vi sono alcuni passaggi cruciali che sono importanti. Rispetto a il fatto che la nostra Costituzione fondi la famiglia su il matrimonio, che prevedeva e prevede evidentemente nella mens di chi l'ha scritta la differenza sessuale, questo è un punto che attualmente direi è in questo senso. Però sulle unioni civili possiamo arrivarci o no? Come? Pietro Boffi, alle unioni civili possiamo arrivarci? Direi che, dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti che tuteli al massimo grado le persone implicate, io sono assolutamente favorevole. Ecco, non siate di vedere appunto in modo esclusivo ed escludente. Bisognerebbe anche ricorrere a il punto di origine di tutto questo. La famiglia non va tutelata perché lo Stato deve tutelare l'affettività, la solidarietà e concetti così generici. La famiglia è nata storicamente come istituto giuridico perché è nata a regolamentare la generazione sostanzialmente. Pietro Boffi, dobbiamo sentire ancora Marco Volante e poi chiedo agli altri ospiti se poi in un secondo esatto mi danno un loro slogan sulla famiglia. Marco Volante, dimmi proprio in poche parole che cosa l'associazione, la vostra Linfa, fa per aumentare gli strumenti anche giuridici per le nuove famiglie. Molto sinteticamente, no, Marco. Io volevo intanto ringraziare a quello che diceva Boffi, perché è inutile negare che tanti tipi di famiglia già esistono e quindi quello che manca in Italia è la volontà di reagire a questi cambiamenti sociali. E bisognerebbe reagirvi con l'adeguamento degli strumenti per aiutare le famiglie ad affrontare la quotidianità, perché è di questo che abbiamo bisogno e questo che chiede la nostra associazione. La Linfa. Invece pare che ci sia, esatto, la Linfa, invece pare che ci sia una sorta di volontà punitiva che è tipica dei regimi conservatori, che non tiene assolutamente conto delle reali necessità dei cittadini, ma solo di alcune odiose ideologie. Marco Volante, questo è già mi pare uno slogan ottimo. Pietro Boffi, proprio in un secondo, che poi voglio sentire Chiara Saraceno e Paola Concia, un secondo, uno slogan sulla famiglia. Niente, che la famiglia Flash. È sicuramente il crocevia tra i sessi e le generazioni, questa è la definizione e questo è un bene per tutta la società. Chiara Saraceno. La famiglia, quando c'è volontà pubblica di assumersi responsabilità l'uni verso gli altri in modo stabile e continuativo. Proprio lapidario, chiarissimo. Paola Concia, chiudiamo. La famiglia è un luogo degli affetti e dell'intimità e della costruzione di un progetto di vita insieme, e quindi l'amore, l'affettività e la costruzione del progetto di vita insieme è patrimonio di tutti, è un diritto universale. Grazie allora, grazie a Linda Laura Sabadini che abbiamo sentito all'inizio, a Stefano Zecchi, a Chiara Saraceno, a Paola Concia, a Pietro Boffi, Marco Volante. È stata una grande famiglia questa puntata, molto speciale. L'importante è sempre tenere appunto alti i valori legati alle relazioni tra le persone, le relazioni familiari. Qui si chiude questo specialissimo. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.